non ho il colore per stare al sole, ma di nascosto voglio guardare ogni tuo gesto che sembra amore. Io vi guardo e non vedete, di nascosto so chi siete. Guardo dalla serratura, da uno schermo tra due mura. Non mi hai identificato, sono ben mimetizzato. Ero oggi al mercato, sono quello che hai scontrato. Guardo un bacio, i ragazzi, un abbraccio con le mani, ho uno sguardo come i pazzi, schiocco con occhi ben lontani, una mano di bambino sfiora il seno della mamma, la dolcezza di una donna, raggi X sulla sua gonna. Decenza.